per cui posso trattenermi, dai, sino alle 7:05. Ah, ok, va bene, va benissimo già, non c'è problema. No, pensavo che avevi deciso di metterti in movimento. Vabbè, comunque non mi ha detto niente, se mi senti bene è chiaro, è forte, è tutto lì, ma non me l'hai detto, vuol dire che già mi stai sentendo, non c'è problema. Avanti qua. 6:09, Giulio. Oh già, lo sai che eri rientrato? Volevo fare, abbiamo fatto un controllo con Giulio. E chi è rientrato? Dal posto Torres, Antonio Sceriffo. Sceriffo? Gira chi butta? Ehi, poco fa, infatti mi ha riconosciuto, ha detto, ma mi ha riconosciuto chi sono? Sporviero sì dalla voce, Pasqualino sì, e allora che so, quella matta te ne vai. Ehi, sta ripiazzando tutto e stava provando i vecchi baracchini, qualcuno esce un po' male, ma ne ha uno che esce bene, quindi ha detto che già si fa sentire adesso. E al portatore si stanno rimettendo un po' in sesto la situazione. Sì, ho visto che c'era la ruota, entravo anche la notte, però adesso un po' hanno mollato, non lo so, stavano entrando diversi, due o tre almeno, entravano, c'era Eugenio e gli altri amici por dottore, stavano entrando, ma poi non li ho più sentiti, la notte stavamo insieme sempre. Prima magari Antonello era nel periodo della pandemia, si faceva sentire un po' di più anche Claudio. Vabbè, Gianluca era tanto che non lo sento, Eugenio un po', l'altro come che si chiama, non mi ricordo, e anch'io, ma a volte li ascoltavo, adesso non li sto più sentendo, e a periodi siamo un po' goduti già, io già lo vedi sono assente completamente, ma io sono giustificato perché c'ho altro da fare, adesso mi sono seduto un attimino qua, ci sono anche troppo, adesso preparo la pappa a Filippo e poi gli apro la porta e ci fa un giretto da solo. Dai, io vi saluto, grazie delle due chiacchiere, oggi mi sono trattenuto 10 minuti in più, ciao Giulio, ciao Gianni, Natalino e chiunque fosse in ascolto sul canale 10, un saluto circolare a tutti, io passo in QRT, avanti Giulio. Ok, ciao Claudio, allora grazie per la chiacchierata, è stato un piacere, ci sentiamo alle prossime, fatti sentire, non mancare, non mancare! Per cui, se no ti telefonerò Giovanni Torres Manzano, ti sveglio. Ui. Piuttosto volevo chiedere una cosa, forse tu sei più informato di me qua, ma non ho più sentito a Claudio di Muro, sono un po' cosa è successo. Già sta bene, sì. Guarda, io sono senza sentire Claudio da quando ero già carbonati un po' perché avevo staccato tutto. E da quando sono qua non l'ho mai sentito, quindi io sono qua dal 15 di aprile, perciò non l'ho più sentito, non so niente. Il telefono mio non è che sia in ottime condizioni per questa zona, quindi non ho più sentito nessuno, sono un po' isolato, non so niente Giulio, assolutamente. Ah ok, è perché nemmeno io l'ho più sentito al baracchino, perlomeno al telefono no, perché io il numero che ho io è il numero vecchio e loro l'avevano cambiato, infatti mi aveva detto di farlo dare a te il numero di loro, eccetera, questo me l'aveva detto tempo addietro, fatelo dare da Claudio il mio numero, così poi possiamo sentirci tutto lì, perché io ripeto ce l'ho il vecchio numero e io con Gianni ci parlavo sempre in tutte le cose, come si chiama, ad esempio di Natale, di Pasqua, eccetera, eccetera. Io ci parlavo sempre con loro, ci mandavamo anche gli auguri, ma poi loro hanno cambiato il numero, io sono rimasto senza il loro numero, per cui va bene così, non è cosa che ti dica. Vabbè, facciamo girare ancora, così almeno si salutano e ti ringraziano anche loro per il questo che ci hai concesso, Claudio. Avanti, Natale. Ok, buona QRT, allora ci sentiamo alle prossime, grazie per il QSO, avanti già. Ciao Claudio, dai, ci sentiamo, buona continua serata, fate sentire ogni tanto, dai. Cava, dai, adesso comincio a mettermi in movimento e a smontarne tutto, dai, perché quando vado là non mi piace farmi vedere con l'antenna, troppa gente che sta guardando, quando passo con l'antenna alta ti guardano tutti, mi gira le balle. Fregatene già, cosa che hanno da guardare, già lo sai che la curiosità la gente ce l'ha di vedere, di controllare, ma ognuno fa quello che crede, figurati avrei dato adito a quello io. Oh, raga PD, vivi con la tua mente, col tuo cervello, non col cervello degli altri. Già, lasciali vedere e giudicare se credono. Basta che non ti dicano niente, che devono fare l'anima. Per cui va bene lo stesso, problemi non ce ne sono. Va bene, dai, vediamo se c'è Gianfranco all'ascolto. Gianfranco, ci sei, sì o no? Sono già un bel po' di tempo. Capire quando ci sono certi segnali eccetera con la strumentazione che possiede, beato lui. Avanti Natalia. Infatti, che sta grande lui non ve, questo Gianfranco, ma te lo immagini giù? Anche a lui mi, adesso ho già mi ha lasciato a Claudio che lo telefono alle 3 del mattino, se non entra la frequenza. Anche a lui faccio così. Intanto il suo numero ce l'ho, per cui. Cari amici miei, siete avvertiti, per cui avvisati che vi posso fare quel dispetto lì. Luia, va bene, dai, ci mancherebbe altro, vuole bene ragazzi. La telemagia è andata lì. Se di punto in bianco così girassi in testa di telefono alle 3 del mattino, esci da lì. Come minimo mi mandano in quel posto, alla grande proprio, e fanno bene, farebbero bene. Gianni. Dai, io vi saluto, vi ringrazio per il questione, ma devo andare, dai, spengo tutto perché sto staccando tutto, ci sentiamo, buona serata. Altrettanto buon proseguo, ciao Gianni, avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, a risentirci, dai, anche a te metti il telefono alle 3 del mattino se non rientra frequenza. bene, sono andato, sono andata lì, ho fatto 3 minacce, ebbene, erano 2, adesso non c'è 2 senza 3, dunque ho completato il tutto, andata lì. Ciao Gagamella. E a Luca mia, a lui glielo telefono sì alle 2 del mattino, così non lo faccio dormire. Chiama tu, e ti faccio esplodere la batteria del telefono, chiama. E come fai a fargli esplodere la batteria del telefono? Oh Luca, come fai? Hai un segreto? Gli mando un virus su. Sottolineiamo l'usù. Gli mando un virus su, capito, mia, ahimè, la batteria si gonfia, poi gli viene mal di gola, la batteria suda e poi mi telefono muore. Ma io ho la maletta con la scala. La pedivella? La pedivella la devo già tagliare a Claudio se non entra. E già la riva, la pedivella a Claudio. bella letta fresca sta entrando, mi... sono un po' bruciacchiato, va. Un po' di relax ci vuole, va. Adesso mi apro la finestra, la faccia tua, hai capito? È stata una bella letta fresca. Cos'hai fatto, Luca? Hai lavorato, tu sì? A macchie sono, là. A macchie. Un po' i piedi, un po' la pittorra, a manci. Manci di bruciature. Aragostato, dai, di compreso. vabbè, perché non bisogna esagerare quando si va per i primi giorni al mare, anche perché oggi picchiamo, oggi erano 32 gradi, non era Bogo o Luca. Vabbè, siamo andati di pomeriggio, capito? Poi c'era un bel di vento, Giulio, un bel di vento. Niente. C'era l'aria fresca, c'è confronto a qua, che c'era caldo, arrivi lì, l'aria era fresca, poi ha mollato il vento, stava bene, l'acqua un po' gelida, oddio, fredda. Certo, ancora non ha raggiunto il massimo della temperatura calda, diciamo, là, il mare, perché si sa, sta per entrando l'estate, e per cui ci vuole ancora un po' di tempo, ancora un po' di giorni, con giornate calde come quella di oggi, allora sì, allora già scalda veramente, e poi si avvicina alla temperatura della pipì, l'acqua del mare, Luca. Infatti già messo il 32 gradi ha fatto, domani c'era 21% di pioggia, domenica piove comunque, poi lunedì di nuovo bello, giovedì 25, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28, insomma. E quello domenica piove per disilludere le persone che avevano pensato, ah, finalmente sono leone, così almeno vado ad abbronzarmi. Allora subito il tempo ha riflettuto, aspetta che adesso prima li illudo, poi li disilludo, e così ha fatto. Natalì, sei rientrato o siedi sempre? Aspetta un attimo, c'è un break, avanti, chi è? Avanti il break. Arrivi basso, basso, Santiago 1, sì, dopo grigio. No, ma sono sempre sceriffo, vedete un po' come sta uscendo, come sta fatto. Sta andando benissimo, non c'è problema. Scusa un attimo che c'è uno qua alla Sassari con un portante vino, se no non riusciamo a sentirlo. Avanti, chi era? Nicola? Sì, Nicola, l'altro chi era giù, ma sono basso. Per me arriva basso. Antonio Sceriffo da Porto Torres era. Avanti di nuovo Antonio, scusa, c'era una chiamatina anche qua, ma invece non è venuto avanti. Avanti Antonio di Porto Torres. Ehi, stavo mettendo il microfono nuovo, ho messo il microfono nuovo. E allora sto provando. Ok. Salutami l'amico che in mezzo a QRM non si sente. Ok. Ok Antonio, non c'è problema, guarda, sono sicuro che magari ti ha sentito, anche se è basso, ma ti ha sentito. Sì, perché lui ha un'antenna un pochino precaria, capisci? E allora, comunque tu ti stai andando benissimo anche con il corpo. La radio è bella, chiara, pulita e non c'è problema. Per cui adesso ti mando avanti Natalino, sei rientrato, vediamo un po'. Natalino, lo senti Antonio Sceriffo da Porto Torres? No, Natalino non riprende, evidentemente è così. Vai Luca, allora non ha sentito, ma è incaricato di salutarti, Antonio da Porto Torres. Sì, lo sento un po' basso. Antonio, mi ascolti? L'ho sentito anch'io, basso basso mi arriva, in mezzo a QRM, ma l'ho sentito. Anche io ti ascolto, segnale 1, radio 1 qua, Radio 1, ma ti sento lo stesso comunque. Ok, io mi allontano un po', sono contento che abbiamo messo a posto questa parte. Ok, buon questo allora, ci risentiamo più tardi, ciao a tutti. Ciao Antonio, mi ascolti a me, è Natalino Alfa 1 da questa parte. Natalino Alfa 1, ti sento bene bene, chiaro chiaro, Radio 5. Cappa, ciao Antonio. Scusate gli amici, ma mi hanno chiamato, mi devo assentare, ci sentiamo alle prossime o più tardi se ci siete. Ok, d'accordo Natalia, alle prossime allora, dai. Allora, una sera siamo sempre qua, se vuoi farci compagnia, sei ben accetto, così almeno scambiamo due chiacchiere, anche con te che sei un pochino distante così da Sassari, distante tra virgolette, che poi è un salto, sarebbe voi in macchina, 10 minuti e sei lì. Per dire no. Altro, mi hai sentito, sì? Sì che ti sento, bene, forte e chiaro, una voce squillante, sembra che sei fuori dal palazzo. Addirittura, addirittura, Altro, sono contento, dai, che il mio baracchino funziona bene, allora, dai, sono contento, figurati. Sì, anch'io ti sento molto bene, ripeto, sono già detto poc'anzi. Una radio bella, pulita, chiara, non c'è problema, è forte, anche forte, va benissimo così. Santiago 9 manca appena ad essere Santiago 9 centrato, per cui va benissimo così, non c'è problema. Bene, se vi mando avanti Luca, sempre qui da Sassari, è così, anche se lo senti basso, però ho capito che già vi sentite ugualmente. Vai Luca. Sì, lo sento basso, basso, dai, non c'è problema. Andavex, un attimino di bianco, non mi sposto dall'apparecchio. Riprendi Giulio un attimo, arrivo subito. Ok, d'accordo Lu, a dopo allora, dai. Rientra subito perché non so nemmeno quanto mi trattengo io ancora, Io faccio girare di nuovo a te, a tu. Siamo rimasti io e tu e basta in questo momento, perché Natalino l'hanno chiamato e si è assentato, Luca si è assentato in questo momento, sì che siamo rimasti io e tu, avanti a tu. Ascolta. Sono sempre attaccato con un braccierino piccolo, ma aspetta che ammazzo. Ciao Giulio. Ciao fra. Sì, ti sento lo stesso. Ti sento Giovanni lo sceriffo, mi sembra, ho sentito, per la primiera. Avanti, Franco da Sosso, avanti Antonio. Ciao Franco da Sosso, ok. Io sono vecchio, ho tanti amici lì a Sossolo, CB, hai capito? Parlavano da Sosso. Ma ascolta, il collega di poco fa stava innestando qualcosa, c'è che non va. E cappa, chi? Giulio? Giulio, avanti. Stai qui parlando di me niente, ma non credo, probabilmente in quel momento c'era anche della propagazione, sarà stato quello. Avanti a tu. Quando stavi parlando c'era qualcuno sotto, fischiamo, invece ora no, il passaggio è liscio. Ah, io ho capito, sì, beh, evidentemente c'è la siccome c'è propagazione, c'è, magari se anche loro trasmettono su questo canale può succedere, certo che sì, è così, in effetti è così. Bene, comunque non c'è problema, dai, avanti se abbiamo capito qual era il problema. Vai Franco di nuovo. Probabilmente era qualcuno che da fuori, che quando si alza la propagazione arrivano a bomba qua, arrivano, probabilmente era quello lì. Sì, vecchio CB, tanti anni. Qua non c'è rimasto quasi nessuno, c'è rimasto qua Antonio. C'è Antonio Giuseppe che è deciso, non so se lo conosci. Cappa. Lo conosce, no? Ok, anche lui è un vecchio, eh. Lo so, tutti vecchi. Anch'io sono un po' non vecchierata così, ma vecchietto lo stesso. Ok, me lo fai un controllo davvero, va? Cappa. Segnale di quasi 9, radio 5, e così sei sceso a 6, sì, sei a 7 adesso, e la radio è sempre buona. E adesso, pure no? Ma leggermente, però è comprensibile. Sì, ci sono tu, ti sento bene lo stesso. Quando stacchi cade di due segnali, di due punti F, da 9 arrivi a 7, però ti sento bene lo stesso, non c'è problema, va benissimo. Il multimode ce l'ho avuto anch'io in passato, altro. Era un bel apparecchio quello, era uno dei migliori allora, io parlo degli anni 70 soprattutto, perché io sono da allora, io sono degli anni 70, come frequentatore della CB, non come sta, sono degli anni 40, per cui se c'è uno vecchio, non sei tu come hai detto poc'anzi, se è vecchio sono io qua in questa frequenza, in questo canale, vai a tu. Io un giorno vado a prendere un pezzo di macchina a Sassari vicino ai pompieri, dietro, c'è una vicino alla banca, c'era un signore, un giovinotto, mi fa, ascolta, tanto che stai, papà, se lo prendi il baracchino, lo sto vendendo per pochi quattrini. Anche lui modulava, è un vecchio, vendevano pezzi di macchina tanti anni fa lì, non lo so se c'è ancora. E l'ho comprato da questo ragazzo, il multimo del 3. E ce l'ho una vita. Ho capito. Non è che per caso si chiama Vittorio, no, quella persona che ti ha venduto il baracchino, a tu. Perché è lui che vendeva, in quella zona lì che vendeva pezzi di macchina, è lui, me lo ricordo benissimo, un vecchissimo CB. Era un vecchio CB, ok, mi sembra che ha fatto l'unico trapianto del cuore, mi sembra che l'ha fatto lì a Sassa. Ah no, allora no, quello che intendevo io, grazie a Dio, già una persona tranquilla e sana. No, allora ho sbagliato persona, ho a tu. Sì, ho capito, dai. E vabbè, comunque. Caspita, va Porto Torres, Porto Torres, io conoscevo lì Guido, che era fruttivendolo, quello lì, al mercato, poi vabbè, gli altri c'era un casino, poi non mi ricordo più i nominativi, da. Prendo io così ne approfitto. Avrei sentito in vecchia data Papa Whisky, avrei sentito Davino Calciofo, e tutta gente che se n'è andata all'altro mondo. Vabbè, ci risentiamo, io chiudo un po'. Ok, Arturo, d'accordo. Ascolta, dimmi una cosa, informami, ma Tokai c'è sempre lì a Porto Torres? È vivo, sì? Spero di sì. Sì, Tokai è sempre nella Croce Rossa. Ok, sì, sì, sì. Sì, tutte quelle persone io le ho conosciute a frequenza, non c'è problema. Ripeto, come ti ho detto poc'anzi, io sono un vecchissimo CB. Io ci sono 49 anni e oltre anche, in frequenza, dal 1972, febbraio 1972, quando ancora eravamo abusivi. Perché ti puoi immaginare, e ancora oggi, nonostante che ho una certa età, non mi sono ancora stancato. Vedi bene, va bene Arturo, dai, se stai chiudendo io ti saluto e ti ringrazio per la chiacchierata che mi hai concesso di fare con te. Per cui ti mando avanti Franco, così almeno ti saluta anche lui, e ti supplico anche a te, fatti sentire, la sera di sotto più o meno siamo, anche un po' prima, dai, come stasera, già ci siamo sentiti anche più presto. Avanti Franco. Ehi Cappa, ciao Antonio, ben ascoltato, vai, per la prima, buon tutto. Ci ascoltiamo le prossimine. Cappa, Tokai, sì, l'ho conosciuto anche io. Nominativo che aveva era che usava veramente il Tokai. Scusa, Giulio, dimmi una cosa. Come siamo messi con la concessione del Malachino? Vero che l'hanno levata? Non si paga più? Sì, confermo, non si paga più niente. Tutto a posto così. Non devi fare niente, niente di niente. Devi solo comprare la radio, l'antenna e trasmettere. Poi per il tutto è in regola, va bene così. Non devi fare assolutamente niente, né tassa e tantomeno o fare domandina, niente, niente, a posto così. Vai ancora tu. Comunque è la ora che, lo sai quanti tagliantini che ho io, pagavo 15 euro, pagavo addirittura. Io sai cosa ti dico? Sì, lo so, 15 euro. Io l'altro giorno, qui a casa, stavo controllando della documentazione, che poi tra l'altro ho anche eliminato. Mi è capitata tra le mani addirittura la prima concessione, targata 1974, premesso che la concessione era entrata in vigore, la legge, nel 1973. Io ci sono addirittura da 72, quando allora tutti quanti eravamo abusivi, ma oggi non è più così. Oggi uno si compra la radio, si impiazza l'antenna e trasmette, e non deve niente a nessuno. Vai a tu. Invece a me nella concessione mi hanno fatto anche quando tu installi l'antenna, il permesso di installare l'antenna, tutto, hai capito? Sì, ma era così. È così, lo stesso discorso dicasi anche per la licenza di ascolto. Prima si chiedeva, oggi invece non c'è niente da fare, non c'è motivo di chiedere niente. Uno prende, si compra l'apparecchiatura e ascolta. Quello che conta naturalmente è comportarsi sempre bene, quello che ascolti non lo deve divulgare a nessuno, è ovvio, perché alle volte si possono ascoltare anche delle trasmissioni che devono rimanere segrete, ci mancherebbe. Tutto lì Anto, dai, riprendi e fai girare tu poi per Franco, vai. Ehi, anche io. Quello che hai detto tu, poc'anzi, ce l'ho scritto sul libretto di Radio Amatore, in ascolto, hai capito? Sì, beh certo, ma è così, la licenza d'ascolto prima si faceva, che io ce l'ho almeno, forse 35 anni più o meno, perché molto dopo che avevo la licenza del baracchino, cioè meglio la concessione, dopo avevo pensato di prendere anche la licenza di ascolto per ascoltare altre frequenze, eccetera. E ce l'ho sempre, se ricordo bene il mio numero qualcosa del genere, come il numero di concessione, CA269, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che sia quello il numero della mia concessione di ascolto, ma che ormai non fa più niente, ce l'ho sempre, la tengo perché intanto non mi pesa dentro un cassetto, e così come ho ancora la domanda e la licenza della prima concessione che ho avuto, e cioè 1974. Faccio girare io adesso per Franco, vai Franco. Sì, la concessione di ascolto è l'SWL, no? Sì, era appunto quella, SWL, sì, è vero. Certo che sì, per cui non ormai, ma era stata pubblicata una notifica sulla Gazzetta Ufficiale che ormai tutto quello non è più necessario. Avanti ancora tu. Sì, infatti, quando sono andato, siccome me l'aveva fatto un collega la domandina, e quando sono andato a ritirarlo alla posta, e mi guardavo da 10 km alla testa, mi ha detto, ma perché mi stai controllando? Perché non è che le diamo così queste cose, hai capito? Sì, perché prima c'erano queste regole così, che poi tra l'altro erano regole, se vogliamo, tutto sommato, anche un po' così, un po' stupide secondo il mio modo di vedere le cose, perché che motivo c'era poi di privare, no, sai com'è, purtroppo era così e basta, e io sono sempre per le regole, e ovviamente, ma ormai anche quella regola non c'è più, per cui ognuno può fare quello che vuole, va, si compra la radio, si mette l'antenna e trasmette. Interessante sempre, il discorso è sempre quello, devi sempre essere tranquillo, non devi mai recare interferenze a nessuno, perché allora in quel caso lì c'è sempre chi può intervenire, questo è ovvio, tutto lì o quanto, ma per il resto, per quanto riguarda poi la concessione, non c'è più problema, perché già dall'anno scorso l'hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che adesso io non ce l'ho, ma se c'è lo trovo ancora, quella notifica lì, e magari te l'avrei anche mandata se avessi avuto il tuo numero di telefono, però sarà per un altro momento, dai, non c'è problema, tu vai. Sarà per la prossima, dai. Ok, io vi saluto, se no non ci riesco a fare quello che sto facendo. Ok, ciao a tutti. Ok, ciao a tutti, salutoni, ti mando Franco per i saluti finali, avanti Franco. Kappa. Ciao Antonio, non proseguo non tutto. Avanti Giulio. Ok Fra. Beh, ne stai facendo collegamenti o Fra, o non ci stai pensando? No, niente. Oh Giulio, adesso stavo guardando, c'ho la vecchia concessione, ce l'avevo appesa qua, nel 90. No, ho fatta un bel di anni prima, dopo che ho iniziato a modulare la concessione, prima era sempre abusivo. E ho fatta nel 90, l'ho fatta quella lì. Mentre l'SVR è il 10 agosto del 92. Ok, sì, fra. Beh, diciamo che inizialmente tutti quanti eravamo un po' abusivi, mi ricordo, allora tantissimi di noi avevamo tutti quanti il baracchino in macchina e io avevo l'antenna della macchina, era di quelle elettriche, no, che si sollevava elettricamente, e poi l'avevo inserito un altro pezzo di antenna nella punta quando dovevo usare il baracchino in macchina, allungavo l'antenna in quella maniera perché per arrivare alla frequenza appunto stabilita dalla 27 e andavo avanti così, poi magari chissà, forse che c'erano anche stazionarie, però non mi era mai successo niente, per cui andavo avanti così, mi ricordo ancora, allora avevo preso un po' il 1100D, nuovo fiammante, proprio bello, una bellissima macchina, che aveva il cambio allo sterzo dal volante, no? Aveva avevo anche l'antenna dell'autoradio che era elettrica. Nel frattempo avevo anche un baracchino, cioè era un autoradio, però insieme all'autoradio c'era dentro contenuto anche il baracchino, era tutto un apparecchio, per cui facevo o una cosa o l'altra, è ovvio, no? sì, ho iniziato, c'avevo come antenna una frusta nera, c'avevo sulla cappotta, nella 120, c'avevo una 127 blu, c'avevo. E ci avevo messo lo stesso un coso per l'antenna della radio e usare la radio anche insieme a quella del baracchino. Aspetta, era bellissimo. Ce l'avevo al centro cappotta, ce l'avevo l'antenna. Anch'io avevo la frustavera, allora era di moda. La frustavera e la colibrì, erano quelle le due antenne. Inizialmente avevo la colibrì, poi l'avevo cambiata e c'avevo la frusta nera, ed era una frusta nera della Lem, che quando l'ho comprata dentro un'unica confezione c'era sia la frusta nera da 1,20 m sarà stata di lunghezza, e ce n'era un'altra che era intorno ai 2 metri e forse anche di più, però quella era in due pezzi. Al centro dell'antenna c'era una ghiera, si avvitavano insieme e avevi un'altra antenna e anche un'altra resa, chiaramente, ma quella la mettevo solo quando magari rimanevo fermo, parcheggiato, e allora usciva più forte con quell'antenna perché era più lunga. Sì, infatti. Poi invece avevo preso la macchina e avevo messo la PLC 800. Poi abbiamo, sembra così, ma ce l'avevano aumentata, poi abbiamo di cassa 15.000 lire e poi ce l'hanno data per 15 euro, dovrebbe essere aumentata. Beh, facendo sì il confronto dalla lira all'euro è chiaro che l'ha aumentata, certo che sì, in effetti è così, ma adesso in compenso ce l'hanno tolta del tutto, anche se non ci faceva niente a nessuno, 12 euro all'anno non era così pesante, dai, perlomeno per la maggior parte di noi non era per niente pesante, per cui era così. Sì, poi dal 1200 poi ce l'avevo io sul 128, avevo allora anche, anzi di la verità ce l'avevo tutti e due, avevo il 1200 e il 128 insieme, avevo, però poi il 1200 l'avevo rotamato, l'avevo, e mi avevo tenuto il 128 e avevo trasferito l'antenna sul 128, successivamente ancora, poi il 124, poi ancora altre macchine, tipo la Cadet, Opel Cadet, e tante altre che adesso quasi non me ne ricordo nemmeno. Avanti, fra. Ho avuto la 500 la prima di tutti, poi la 500, la 127, la 1, la Peugeot 206 e la 207, boom, bye. Poi ho avuto anche l'Alfa Sud, ho avuto io l'Alfa Sud, poi così ho avuto l'850, quella Sport, quella eccetera eccetera, l'850 berlina normale, quella addirittura era di mia moglie, perché quando mi sono sposato lì avevo quella, ne avevamo sempre due, poi naturalmente ancora ce ne facciamo le due macchine, non ci serve niente. L'850 l'avevo venduta a un cugino di mia moglie, l'avevo venduta, che è lì dalle sue parti, lì vicino. Vabbè, sto parlando di tanti anni fa, ormai l'850 già lo sai, è sparita un bel po' di tempo. Poi cosa ho avuto? Poi ho avuto anche la Panda, ho avuto l'Opel Vectra, quella 1.6 cilindrata, una gran bella macchina di lusso. Insomma, già ne ho avuto, adesso invece ho la C3 e la Ford EcoSport, due macchine a casa. Ok, vai fra. Due macchine, grande vai. Io ne ho una solo, mi è rimasta la 207, ce l'ho dal 2007, quella lì. E ancora deve fare, perché come condizioni è buona. Poi ho avuto una quarantina di anni il motocarro, ho avuto la 501 di motocarro, quella la usavo naturalmente per lavoro. Nel frattempo avevo anche qualche motorino, tipo la Vespa, la ADL. Poi alla fine ha avuto anche sempre un altro arresto, però quella lì era addirittura un cinquantino per la città, quando mi dovevo spostare velocemente, ad esempio andare a fare delle commissioni tipo in banca eccetera, andavo col cinquantino. Anche quella era una comodità. No, e ne ho avuto mesi, a voglia, ne ho avuto tantissimi, altre moto, anche altre, sempre quella, ho avuto anche la Taurus, ho avuto l'Ital, ho avuto la Guzzi, ho avuto la Airmac, la Harley Davidson, come si chiama, che non me lo ricordo più, 250 di cilindrata, quello lì era un bulli, le bacca le dai, quella la temevo, la verità, ma è No, io molto veloce, non mi interessavano perché era meglio una pistola. Ma io adesso andavo piano, no? Non ho mai avuto la passione per correre, no, assolutamente no. Andavo sempre piano, con la testa attaccata al collo, no? E così altrettanto con la macchina, come ancora oggi faccio, vabbè, oggi ho l'età che ho, e ci mancherebbe altro che io facessi il cretino in macchina. Vorrei vedere la metà fare il cretino in macchina, te le immagini che ho fatto, Non penso, e neanche in moto, a meno che non gli metti le rotelle sotto dove mettere i circoli. No, niente moto più, assolutamente no. Fino a 3 anni fa, una cosa del genere, 3 anni e mezzo fa, avevo sempre motocarro, ma era quello del lavoro, ma quello già era 3 ruote, per cui non c'è problema. Infatti con quello già ne facevo strada, perché lo usavo molto spesso anche per viaggiare da casa in falegnameria, anche perché quando ce la dovevo avere sempre a portata di mano, perché mi serviva materiale e andavo con motocarro a caricare, o dovevo consegnare il lavoro e andavo con motocarro, o dovevo andare a prendere dei lavori a casa dei clienti, li piazzavo sul motocarro e me li portavo in falegnameria, certo che sì. Facevo così, quella era quasi come la pialla, praticamente, come la pialla elettrica che ho ancora oggi, e anche quella era considerata da me, era considerato così il motocarro. Per il mestiere che facevi ci voleva, non è che tutte le volte che dovevi consegnare lavoro ai clienti dovevi pagare un mezzo, e allora sarebbe guai. Perché quello lì incrementa sul fatturato. Certo che sì, quello era tutto soldi che venivano in tasca, perché giustamente a parte la benzina e basta, che poi tra l'altro allora era anche a miscela quel motocarro lì, ma poi quando hanno cambiato che non vendevano più miscela, il meccanico mi aveva dato un misuratore, mi diceva, Luglio vieni, te lo do io, lo compri da me tutte le volte che ci serve, e fai benzina e olio tutti insieme. Era un bicchierino con la misurazione in questo bicchiere, mi diceva, devi preparare al 2%, tu per quello metti sempre la stessa cifra e arrivi a questo livello. Io di solito quando vado al rifornitore faccio sempre il rifornimento con questa cifra, e allora con quella cifra sono tanti litri e devi arrivare a questo livello qua. E così facevo, e sono andato avanti per tantissimi anni. Certo, già mi ricordo quando non hanno più venduto quella benzina lì. Prima c'erano le colonnine col coso dell'olio, c'erano per fare la miscela. Le chiavi, quanto volevi, al 2, al 3, al 4, si faceva la miscela giusta. Quella già era giusta. Purtroppo poi hanno cambiato e chi aveva quelle moto lì sono dovute tutte arrangiarsi a miscelarsi la benzina, no? C'era quello che la faceva troppo grassa e dai boom. Certo che sì, no, io già sono sempre stato amico dell'officina dove avevo comprato tra l'altro il motocarro. Dunque non c'era problema per tantissimi anni, e ancora oggi siamo amici, ci sentiamo al telefono eccetera eccetera. Poi eravamo vicini, lui aveva un vicino, io avevo la mia botteguccia, per cui eravamo vicinissimi, insomma amici da 50 anni, da 50, da 60 devo dire, perché ci conoscevamo già da casa prima quando eravamo ragazzini, per cui poi siamo diventati grandi, ognuno ha preso la sua strada per il tipo di lavoro, e loro avevano l'officina, erano due fratelli, erano riparavano le moto e anche i motocarri, e dunque e io ero lì vicino a loro, anzi loro addirittura prima di me lavoravano in Cruppio, ma io sto parlando addirittura del 1969, 68, 69, più o meno quegli anni lì, o fine 68, se mi ricordo, inizio o 69 più o meno, insomma parte ieri mi dicevo qua. Ecco, l'hai fatto ieri, auguri. La femmina no, fatelo molto, quanti anni sono passati. Oltre 50 anni, eccetera, eccetera. E vabbè, comunque è così, ne cosa vuoi fare. Ormai siamo in pensione, per cui andiamo avanti lo stesso, finché Gesù Cristo ci lascia sulla terra, quando non ci lascia più, pazienza. La volontà è sua, non è la nostra. Vai, fra. Ecco, quello sì, già è vero. Lei vabbè, pazienza. Quando si chiama vuol dire che andiamo. E niente, però non ci vuoi fare, Giulio. Purtroppo, quello lì non guarda nessuno in faccia. Quello lì tutto al dito, se ne è andata. Infatti, quello è proprio così. Vabbè. Stavo dicendo, sono già diversi giorni senza sentire Gianfranco. E anche Marco, anche lui è un pochino assente. Marco, ci sei in frequenza? Anche lui, forse si è andato al mare, sai, con la giornata bella, lui già è uno che al mare ci va. Probabilmente ha fatto così anche oggi. E vabbè, dai, comunque. Si riparano di sentire, e chi sarà? E che sarà? Non era una cosa urgente, però io spero che si faccia risentire quanto prima. Vai, fa. Ecco, e io, vabbè. Non è, sta cominciando a non attirare più questa storia. E io, vabbè, me lo lascio poi. Quando capita lo accendo. Se c'è gente va bene, se no pazienza. Beh, certo che sì. È ovvio. Nessuno, pazienza, se c'è propagazione tentiamo di fare anche qualche collegamento come ho fatto in questi ultimi giorni, già ne ho agganciato più di uno, anche uno dal Belgio, quando è 4-5 giorni fa, uno dalla Romania, uno dal Portogallo e poi dall'Italia, si sa, dall'Italia già è facile, perlomeno per me, soprattutto dal sud Italia, e anche dal nord, già li abbiamo sentiti, di mattina anche, sono passato su altri canali, non questo, su canali un pochino più alti, intorno al 27.500 più o meno, dai, e anche oltre, e qualche aggancio già l'ho fatto, tutto lì fra, e cosa ci vuoi fare, tanto il tempo non mi manca, cosa faccio intanto? Un po' al baracchino, un po' alla televisione, un po' al computer, eccetera eccetera, non ho nemmeno il gatto per potergli dare una pedata, nemmeno quello posso fare. Vai, fra. Capo, quelli meglio non averlo in casa. Ci ho provato io, ieri mi sembra, sulla 555, però troppo casino, troppo. Prendo la frequenza giusta, dopo che fai la chiamata si vengono addosso, sembrano lupi, si mettono uno sull'altro, hanno sopramodulare, a fare, chiamando, se uno chiama uno, sta parlando con uno, aspetta, no, fammi spostare. Purtroppo sì, purtroppo è così, la gente si accavalla l'uno con l'altro e allora diventa difficile poter fare i collegamenti, perché non va bene così. Ieri sono passato così, sempre spazzolando, sono passato sul 45, c'era Massimiliano e mi sono divertito ad ascoltarlo. Lui agganciava proprio alla prima chiamata che faceva, agganciava chiunque, non c'era problema. E mi sono divertito lo stesso, stando in ascolto, perché va bene anche così, che problemi ci sono. bene, avanti. Vabbè, loro hanno le radio adatte per entrare lì, quello 45 radio frequenza casinista e basta. Lo salutano e scappano. No, certo, no, ma per dire, no. Mi sono, anzi ero curioso anche di sentire, perché lui, vabbè, mi arrivava a roba di 9.25 lui qua. E poi io sentivo tutte le chiamate che ha fatto, l'hanno sempre risposto, sia da stazione fissa che da stazione mobile. Per cui tu lo sai, no? Lì in quel canale ci sono molte stazioni mobili che però lui con quella attrezzatura non aveva problemi nel farsi ascoltare, se ci mancherebbe altro, perché lì devi spingere, se spingi si sentono, se no anche lì già lo sai, anche lì si accavallano l'uno sull'altro, ma se non spingi no, non è che ci sia poi tanto da stare allegri. Se non spingi non si sentono. Ma guarda, vabbè, ci ho provato una volta, vabbè, però c'era poca gente, mi hanno sentito. Ma a volte sento con questo che sto modulando adesso, neanche mi sentono, perché è una modulazione diversa da quella che c'hanno loro. Quelli lì sono canali, per così dire, dove si fa combattimento, no? Sono, è un po' come le cose, come quello dove... 555, anche quello è un canale praticamente, è il link nazionale della 27, quello, no? E lì tutti li vanno, tutti lì. Se vuoi sapere se c'è propagazione vai lì, oppure se è 45 sai cosa ti puoi aspettare dalla propagazione. Per cui lì lo sappiamo, poi usano delle potenze abbastanza pesanti, per cui vanno bene. Però chi ha un semplice baracchino, magari come possiamo trasmettere noi, no, non è tanto semplice riuscire a farsi sentire, perché ci sono soprattutto quelli che usano la radio mobile, tipo camionisti eccetera, quindi quando attaccano magari qualche kilowatt di potenza, è ovvio che come fai a sorpassarli, sono loro che comandano lì. Infatti. Vabbè, avanti ieri, sì, stavo ascoltando lì. Era zitta la frequenza, zitta proprio. È entrato questo qua, è entrato, mi è arrivato 9.10, mi è arrivato. Ha fatto un grido, mi è arrivato 9.10, poi è sparito, non lo sento più. Sì, ma certo, l'altro giorno stavamo parlando con Pantelleria. Pantelleria è vicino alla Tunisia, è più vicino alla Tunisia che alla Sicilia. Questo qui mi ha detto, sono contento di riuscire a parlare con la Sardegna perché non ci sono mai riuscito, dice, come mai? Io gli ho detto, ma lì dalla Sicilia è facilissimo parlare con noi, no, ma dice, ma io sono Pantelleria, sono più vicino alla Tunisia, dice, che alla Sicilia, come distanza, è più vicino alla Tunisia che dice, non è semplice. Infatti poi si è spostato un attimino sull'altro canale e ha fatto entrare un altro suo amico, sempre da Pantelleria, e abbiamo parlato per un bel po', sempre con questo, ero io e Franco di Sassari, no? E abbiamo fatto un bel questo, veramente strano, perché non sapevo che Pantelleria fosse vicino alla Tunisia, più di quanto lo è alla Sicilia. Sì. Io con Pantelleria ci avevo parlato tanto tempo fa, ci avevo parlato, ma ti sto parlando di, sarà un 4-5 anni, 5 anni fa, ci avevo parlato con Pantelleria, due volte ci avevo parlato, addirittura volevo fare la QSL, gli ho detto che eravamo finiti tutte le QSL. Sì. Prima erano di moda, erano molto di moda, adesso no, nessuno te li chiede più, la QSL non te la chiede più nessuno ormai, ci siamo stancati di stare lì a spedire, comunque era una cosa simpatica anche quella, anche se anche quella erano soldi spesi, ma diciamo, impoverire più di tanto per spedire una cartolina con francobollo eccetera, non era quello il problema, solo che a noi ci chiedevano sempre la QSL di sughero. Infatti io avevo anche la scorta delle QSL di sughero e sino a poco tempo fa ne avevo qualcun'altra che poi l'avevo data, non mi ricordo a chi, così regalata a qualcuno che era venuto qua da me e gliel'ho data. Raddoppiamo sempre, mandavo quella del sughero e quella anche personalizzata, fatta da me, costruita da me stesso. Avevo fatto poi tutte le fotocopie e gli mandavo anche quella. Vai, fra. Capo, sì, in effetti volevano quelle del sughero, volevano. E poi a uno gli ho mandato lo schema anche dei quattro muri, gli ho mandato. Per ringraziare mi ha mandato un'altra QSL. Sì, beh certo che sì. Sì, a me me ne hanno mandato una volta, uno me ne ha mandato addirittura tre. E questa mi sembra che era dal Portogallo, se ricordo bene. Mi aveva mandato la sua personale, addirittura con la sua foto, però era un foglio con... Tu immaginati un foglio per scrivere una lettera, ecco, di quella grandezza lì, piegata naturalmente, e poi mi avevo mandato una panoramica della città dove abita e più tutta la sua stazione, e di quelle ce le dovrei avere ancora conservate da qualche parte, perché ne ho tantissime conservate. Non so neanche che fine hanno fatto quelle lì, le avrò buttate prima abitavo in un'altra casa, sai che fine hanno fatto. Ne ho dato un po', a un amico avevo dato delle queste QSL così che gli piacevano, ne ho dato. E poi neanche boh, le avrò buttato via, ne avevo un casino, ne avevo. Sì, in effetti chi è che non ha? Io ne avrò, senza esagerare, ma un centinaio ce li ho, forse anche di più. Addirittura messi dentro una busta grande, di quelle buste da coso. Tu immaginati quelle buste che usano per fare le lastre grandi, una di quelle buste lì, grandissima, avevo messa in un cassetto e ce li ho sempre, una di quelle buste gialle di allora, e che penso che li usino anche allora, anche oggi. Suppongo di sì. Vai, fra. Prima era bello, dalla macchina soprattutto, caspita, arrivavi con pochi watt, con 5 watt, che arrivavi dappertutto quando c'era propagazione. Sì, in effetti era così, poi c'erano anche tante donne che facevano anche loro le CB, per cui era bello, ma mi ricordo anche alle 6 del mattino a fare collegamenti, ne facevo tantissimi anche con la Bassa Italia. Io mi ricordo tutte le mattine nel periodo di preparazione c'era questa ruota di Brindisi e alle 6 del mattino mi svegliavo e facevo collegamenti con loro, era un gruppo di 6-7 persone tra cui c'erano anche delle donne e facevamo queste ore la mattina presto, molto presto. Noi ci chiamavamo i mattinieri, allora eravamo così, ma ormai quei tempi sono passati e nessuno più si è sentito così presto. Oi, buonasera! Oi, ciao a te, hai trovato? Da me, avanti fra per Antonio. E sta cosa? Passo un attimo, sono sul caldo, avanti, buonasera, dai, io vado a mangiare, vi saluto a tutti. Ok, ciao a tu, buona cena allora, dai, ci sentiamo, avanti fra. Ciao a tu, buona cena, buon tutto, dai, ci sentiamo. Ciao. Molto, mi anch'io, sono molto, tanto non tarderanno molto a chiamarmi per la cena anche a me, sono già le 8:10, esattamente 10:00. Per cui siamo vicinissimi alla cena, sopra. E infatti io non scendo giù. Ah, scendo, non avevo visto l'orario. Sono aperto. Va bene, vai Giulio, ci sentiamo, vai. Non accenna con tutto, ce la ascoltiamo alle prossimine. Ok, fra, ciao, ci sentiamo, fra. Grazie, dai, per la chiacchieratina, alle prossime, dai. Ciao, buona cena anche a te, dai. E buonanotte. Ciao, ciao, fra. Eia, ciao, ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Avanti. Antonio. Oi, buonasera, come va? Ehi, buonasera, tanto ciao. Ciao, pa, buonasera. Ho di caldino oggi, eh? Ma che ho visto, cioè, ho visto. Neanche visto, perché non sono salito nella Bettelina, c'era un incidente, se non sbaglio. Cosa ho di? Ho detto, sei passato per caso via la Bettelina? Oggi no. Ah, niente, allora. C'era il vigile del fuoco, sia col camion che con la macchina, poi col fuoristrada, vigile urbano, carabinieri, era poco di giustizia. Ciao, c'è un bel di gente. Cioè, sicuramente è successa qualcosa. Sì, sicuramente un incidente. Sì, quando mai non si battureggiano? Cosa? Ha giusto, quando mai non si battureggiano? Non è andato bene uno, rimane uno nella, in via Milano che ha una lampada segnaletica. Beh, vabbè, se non la butta da solo è un conto. È brutto quando fa danno altre persone. Vabbè, ma visto, sì, sono convinto se passava uno l'avrebbe schiacciato. Ecco via. Non c'è nessuno oggi? A Tombari. Poco fa c'era Giulio e compagni entrato. Sì, l'ho sentito, diciamo, perché era la container, lo accedo, facendo ascolto, stavo facendo un po' di pulizia, però non sono entrato. Sì, già li ho sentiti, c'era Franco, Giulio, un'altra persona. Capa. Vabbè. Meglio così. Capa. No, grazie a Dio tutti i giorni già c'è sempre qualcuno. Sì, se no. Se non faccio una malattia io. Se c'è gente, beh, se non faccio altro. Pure io. Anzi, adesso entrazzavo, faccio una per notte. Ci sentiamo più tardi se ci sei, se no. Ciao. Ehi, già acceso, non ti preoccupare. Andrei, ciao. Ciao, padre, mi trovo un più chizzo, già acceso. Ok, ciao. Ciao.